Sottotiro. Sottotiro. Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Cari radioascoltatori, buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Esattamente un anno fa l'Italia si è svegliata con notiziari radiofonici, con agenzie di stampa che battevano la notizia, con l'informazione che era in corso in tutta Italia una grandissima operazione anti-ndrangheta svolta in contemporanea dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria e di Milano, e non solo, che portò all'arresto o comunque vide indagate oltre 300 persone, una maxi operazione che a moltissimi svelò l'acqua calda, vale a dire che c'era un'associazione strutturata ovunque in Italia che si replicava anche a Milano con gli stessi identici modelli. Questa associazione si chiama 'Ndrangheta e oibò esiste anche a Milano, in realtà è la scoperta dell'acqua calda. Uno dei magistrati che hanno condotto questa operazione è il procuratore aggiunto della Repubblica di Reggio Calabria, Nicola Gratteri. E proprio con Nicola Gratteri noi facciamo il punto ad un anno di distanza. Buongiorno Gratteri. Buongiorno. Allora, ci dica lei qual è attualmente la situazione. A Reggio Calabria, ad esempio, a che punto è il dibattimento? C'è stata una richiesta di rinvio a giudizio? Cioè, allora, ci spieghi lei. Proprio pochi giorni fa si è conclusa l'udienza preliminare e sono stati rinviati a giudizio 35 persone che hanno chiesto di essere giudicati con rito ordinario. Due sole persone sono state assolte, c'è stato il non luogo a procedere. 120 persone hanno chiesto di essere giudicati con rito abbreviato e l'udienza incomincerà il 15 settembre 2011, mentre quelli che hanno chiesto il rito ordinario, il dibattimento si celebrerà davanti alla Tribunale di Locri a partire dal 16 di novembre sempre 2011. Che cosa rimane di quella operazione dal punto di vista, diciamo così, degli sviluppi che voi avete messo in campo a Reggio Calabria? Questa indagine è stata importante perché ha segnato due punti importanti. Intanto siamo riusciti, grazie soprattutto alle nuove tecnologie, quindi alle intercettazioni ambientali, telefoniche, telematiche e a delle video riprese, a dimostrare che l'andrangheta del nord non è una cosa autonoma, diversa, come hanno detto alcuni storici, alcuni studiosi del fenomeno. Sinora hanno sempre sostenuto, cioè sino all'operazione crimine hanno sostenuto che l'andrangheta del nord si era sgabellata dall'andrangheta del sud. Io ho detto no, non è possibile, perché altrimenti sarebbe una cosa diversa, non sarebbe 'ndrangheta. Certo. Questa indagine invece ha dimostrato il cordone ombelicale che c'è tra tutti i locali dell'ndrangheta del mondo, non solo della Lombardia ma anche della Germania, della Svizzera, della Canada, Australia, eccetera, con la mamma di San Luca, cioè con la struttura dove ci sono i custodi delle 12 certo. tavole. 300 persone indagate e barra o arrestate, richieste di rinvio a giudizio, riti abbreviati, però a sintesi qual è? Che oggi l'andrangheta è stata ferita a morte, è stata ferita ma si sta curando, qual è il suo giudizio? Ferita a morte no, ecco. Guardi, il mio giudizio è questo, ci sono ancora migliaia di 'ndranghetisti in giro, anche nella stessa provincia di Giovanni, si immagini quanti ce ne sono in Italia e quanti ce ne sono all'estero. Ecco, ma io le faccio una domanda cattiva. Arrestato un capo, se ne fa un altro, alla riunione successiva si nomina il successore, non è che si sgomina l'andrangheta. Sono stati inferti, stiamo infergendo duri colpi, ma non siamo all'agonia dell'andrangheta, perché l'andrangheta è ancora forte, perché è piena di soldi, ha milioni di euro che non riesce a riciclare, talmente sono tanti, grazie, poi provento del grande traffico di cose. Allora, io le posso dire, per quella che è la mia esperienza, l'andrangheta oggi è più arrogante di prima, la prova ce l'abbiamo nel fatto che mentre 30 anni fa il mafioso andava a trovare bussando con i piedi alla porta, perché in mano aveva capretti, capicolli eccetera, andava a bussare a casa del politico, oggi sono i politici che vanno a casa del capimafia a chiedere il pacchetto di voti. E perché non vengono però messi in rete? Aspetta, per due motivi vanno a chiedere i voti. Uno, perché l'andrangheta è più forte, perché riesce a dare posti di lavoro, a controllare la cosa pubblica, è entrata nella pubblica amministrazione. Ora, intanto noi possiamo fare tutto ciò, si può fare tutto ciò che si può dimostrare. Certo. Poi io so che esistono, io so perfettamente tutti i mafiosi di Locri, di Siderno, di Gioiosa o di Reggio Calabria, però questo non basta, devo avere le prove. Certo. Ora bisogna concentrarsi, attrezzarsi per trovare le prove anche nei casi. Qualche politico è stato toccato, però non basta, è poco rispetto a quella che è la realtà criminale, rispetto a quella che è la presenza delle mafie nella pubblica amministrazione. Assolutamente. Nella cosa pubblica. Bisogna trattarsi, ma noi, io personalmente, noi i colleghi ce le stiamo mettendo tutti. Lo so bene. Gratteri, la ringrazio per questa chiacchierata, ovviamente le auguro buon lavoro. Grazie a regia Paolo Corleoni, in studio Laura Faggini e Roberto Galullo, vi auguro una buona giornata.